piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Da Milano a Roma fino a Palermo, ieri è stato il giorno di un nuovo inizio per molte attività nella settimana più difficile per la ripartenza. Di nuovo attivi negozi, bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti, riaperte anche le chiese dal 15 giugno via i centri estivi. Precauzioni ovunque e code quasi inesistenti, le uniche file erano davanti ai parrucchieri. Si rivede il traffico a Milano, Roma, Napoli e sui canali, a Venezia dove tornano anche le gondole ma senza turisti, così come a Firenze dove molti commercianti di Pontevecchio scelgono di aspettare ancora qualche giorno per le riaperture, con Confartigianato che denuncia incassi in calo del 60%. Una delle impressioni che sto provando questi giorni, e come tale la trasferisco ai miei ascoltatori, è quella che mi sembra di rivedere dei vecchi filmati dell'anno 1945, in cui i liberatori transitavano per le città italiane, tutte le signorine salivano sui carri armati, li abbracciavano, gettavano fiori, la folla applaudente, festante, gioiva all'unisono perché c'era un momento di svolta nazionale, totale, radicale, come se fosse usciti da un incubo. Poi le stesse persone che hanno partecipato all'incubo erano lì a festeggiare, fa parte di un'altra sottolettura. La stessa impressione ho avuta ieri in un rapido giro dalle parti di casa mia. Ho visto un ristorante che conoscevo, aveva tutti i tavolini fuori, festeggiavano, brindavano. Osservai con il titolare, che era un amico mio, dico: guarda, ma se passa qualcuno ti fa la multa. Dice: no, no, tranquillo, vedi, stanno tutti a un metro di distanza. In effetti la sua misurazione mi faceva vedere che gli avventori stavano a un metro di distanza, ma l'impressione era che nulla fosse cambiato. Normalmente si sta a un metro di distanza quando ci sono dei tavolini che tra loro sono distanziati 30-40 centimetri, quindi una questione minimale legata ai metri, ai centimetri. Questo vale per le persone che avevano degli esercizi in cui si somministra cibo. Sono passato davanti alla mia palestra, stanno pulendo, rinfrescando, sanificando, perché anche loro iniziano tra qualche giorno, e loro mi dicevano: il problema sarà che non possiamo tenere l'aria condizionata accesa, come faremo, qui fa caldo, e via dicendo. Via via, passo per passo, mi rendevo conto e facevo il giro che si fa oggi nel racconto di questa fase 2 che entra nella sua reale consistenza, frammentando il problema per categorie, per persone, per bisogni individuali. Questo mi fa perdere un pochino l'idea generale di quello che abbiamo passato e di quello che in realtà dobbiamo tenere sempre d'occhio. Ho visto illuminate letture fatte da scienziati le quali non voglio mettere in dubbio senz'altro la competenza. Il nostro sistema immunitario lo mettiamo in movimento con la nostra volontà, quindi basta pensare a un certo punto che dobbiamo convivere con il virus, e si esce dalla fase epidemica, si entra nella fase di convivenza e tutto si attiva. E questo obiettivamente mi dimostra che esiste una lettura binaria dell'attualità, che purtroppo molte volte è affidata anche agli schieramenti ideologici. Se sei da una certa parte di visione del mondo, di visione politica, di aderenza partitica, devi dire che basta, è ora di ricominciare, il lavoro prevale, ci siamo scocciati, non ci vuole il dominio della comunità clinica rispetto ai bisogni del paese. Ieri ho fatto una trasmissione proprio sugli atteggiamenti delle persone, questo è venuto fuori, che c'era questa forte spaccatura fra chi ancora ha paura, sta dentro, si muove nella paura non più sostenuta razionalmente da supporti generali, perché oggi si parla categoria per categoria, persona per persona, problema per problema, della ripartenza. Questo ci fa riflettere però sul fatto che forse avere un'attenzione su quello che è il dato scientifico, su quello che sono le analisi dei numeri, farebbe bene un po' a tutti. Non voglio passare per disfattista. Nei periodi peggiori della nostra storia, tutti quelli che ponevano comunque il piacere del dubbio o illecito esercizio del dubbio vengono considerati dei disfattisti. Quindi questa mattina non voglio fare un programma disfattista, ma voglio riporre un problema generale, globale, su quella che è la situazione attuale. Quindi chiamate all'800 24 0024, aggiungete le vostre perplessità, le vostre domande, i vostri dubbi rispetto a quello che questa mattina cercheremo di porre. Un'ora fa, un'ora e mezzo fa, è stato diramato un comunicato stampa sulla gestione sanitaria della fase 2, dal titolo, un titolo molto politico, il governo abdica pieni poteri alle regioni. Ora, questa non è una trasmissione in cui si fanno analisi politiche, però voglio capire, tradotto in termini comprensibili al mondo, cosa sta accadendo. Per farlo mi rivolgo al presidente della Fondazione Gimbe, che ha fatto questo tipo di report, questo tipo di osservazione. Ripeto, la Fondazione Gimbe è un ente senza scopo di lucro, che si occupa proprio di favorire la diffusione e l'applicazione delle migliori evidenze scientifiche con attività indipendenti proprio su quelle che sono le informazioni relative alla sanità. Il loro presidente è un medico, è Nino Cartabellotta. Buongiorno presidente. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io ho tenuto sempre d'occhio quelli che sono i report della Fondazione Gimbe in questo periodo, perché rappresentavano un po' la funzione che ha il grillo parlante nell'euforia molte volte della scoperta del paese dei balocchi da parte di Pinocchio. Non voglio paragonare a questo tipo di lettura la situazione drammatica attuale, poi in questo momento ho avuto l'impressione generale che siamo tutti in un momento di euforia in cui sembra che sono arrivati i liberatori e dimentichiamo che ancora in realtà dobbiamo fare i conti con qualcosa di molto serio. Allora, Nino Cartabellotta, vediamo un po' di capire, è il secondo, diciamo, alert che voi mandate nel giro di pochi giorni, dire ma facciamo però un po' attenzione rispetto al dato generale e cerchiamo di dare uno sguardo più generale alla situazione, senza entrare nei singoli problemi che non voglio trascurare. Qual è la sintesi di questo vostro rapporto? Ma la sintesi in generale viene fuori dalla pubblicazione del decreto legge del 16 maggio e del successivo DPCM, da cui emerge un aspetto abbastanza preoccupante rispetto a quello che è il concetto di tutela della salute, che come sappiamo è affidato alla Repubblica dall'articolo 32 della Costituzione, Repubblica che di fatto è l'insieme di Stato e di Regione, si parla di leale collaborazione tra Stato e Regione. Quello che ci ha sorpreso molto del decreto legge del 16 maggio è che di fatto lo Stato, il Governo, ha demandato interamente alle regioni la responsabilità del monitoraggio epidemiologico dell'epidemia da coronavirus e le conseguenti azioni. Che cosa significa questo? Quindi parliamo, Cartabellotta, per far capire al pubblico, i famosi dati che noi guardavamo con grande apprensione nei primi tempi del lockdown, tutte le sere c'era questa relazione, poi l'hanno, diciamo, diradata, abolita, perché diciamo, non dicevano nulla, poi l'hanno abolita definitivamente, però ancora, diciamo, il termometro della crisi l'abbiamo su dei dati che dovrebbero essere in qualche maniera oggettivi, considerati come tali. Non è così secondo voi? Ma i dati noi ci auguriamo che continueranno a essere oggettivi. Quello che è la novità introdotta dal decreto legge è che di fatto ciascuna regione monitorerà in totale autonomia quello che succede nel proprio territorio e andrà a calibrare in funzione di questa autocertificazione del monitoraggio, mi si consente il termine, quelle che sono misure in deroga, che possono essere di tipo ampliativo piuttosto che restrittivo. Ovvero sia, non sarà più lo Stato a definire eventuali lockdown regionali, locali, ma ciascuna regione effettuerà il monitoraggio per conto suo e applicherà di conseguenza quelle che sono le misure. Perché questa cosa a noi preoccupa? Preoccupa un po' perché siccome l'identificazione dei nuovi casi per esempio è legata anche alle politiche di esecuzione dei tamponi, una regione che decide di non fare incrementare più di tanto il numero dei casi verosimilmente asintomatici, quelli che oggi soprattutto stanno nella maggior parte delle regioni, visto che i casi gravi ormai li stiamo perdendo nel senso, diciamo, dell'alleggerimento degli ospedali e della terapia intensiva, potrebbe decidere, perché c'è una vocazione più spostata verso lo sviluppo economico, verso una riapertura totale o subtotale, di effettuare meno tamponi e fare in modo, diciamo, di presentare al paese un quadro, diciamo, meno grave rispetto alla diffusione dell'epidemia di quello che è realmente. Quindi, Cartabellotta, voi dite il senso generale di sicurezza che noi in questo momento stiamo condividendo e per fortuna si esce anche da una situazione psicologica nazionale molto pesante, è basato sulla discrezionalità delle regioni, diciamo anche sulla lealtà, sulla il senso di responsabilità delle regioni. Se per assurdo, non voglio assolutamente insinuare alcun dubbio né immaginare comportamenti scorretti, una regione volesse dare l'idea che può allargare le misure che impongono sicurezza, distanziamento, cautele per, diciamo, rimettere in piedi la sua economia, basterebbe che facesse un po' meno tamponi e dimostrerebbe che il problema si sta allontanando a quelle latitudini. È questo il discorso? Esattamente così. Questo significa che noi oggi, da un punto di vista oggettivo, anche come ente indipendente, come Fondazione Gimbe, l'indicatore più affidabile che abbiamo per monitorare se dovesse esserci una nuova risalita della curva epidemica può essere solo il ricovero ospedaliero e l'occupazione delle terapie intensive, ma per un fatto molto semplice, perché sono dati che sono tempestivi e sono affidabili in quanto raccolti dai flussi ospedalieri standard. Quindi di fatto questi dati sono gli unici di cui noi ci possiamo fidare totalmente. Però questo è abbastanza, abbastanza inquietante, perché vuol dire ci rendiamo conto se è stato fatto tutto bene o se abbiamo sbagliato qualcosa soltanto quando vengono ricoverate le persone gravi. Ma il fatto che sia inquietante, voglio dire, purtroppo non esclude la possibilità che possa essere così, perché il vero grosso problema qual è? Che noi oggi nella fase 2 e in tutte le regioni dovevamo avviare una strategia di testing e di tracing, cioè di aumentare il numero dei tamponi nei soggetti asintomatici, di identificare i soggetti infetti, di tracciare i loro contatti e di mettere tutti quelli che erano positivi in isolamento domiciliare. Se questa politica non è passata nella maggior parte delle regioni, è evidente che al diminuire del numero dei tamponi effettuati o comunque mantenendoli costanti, che significa di fatto non facciamo la strategia di testing, noi potremo vedere soltanto la punta dell'iceberg quando noi ci auguriamo erano di famose no, questo 3T. Dovesse verificarsi. Un giornalista lo chiese anche al Presidente del Consiglio durante l'ultima conferenza stampa, ma le 3T che fine hanno fatto? Questa era una delle famose 3T di cui si diceva al testing. È la prima. Le 3T sono testare, testing, tracciare, tracing e trattare, che significa poi mettere in isolamento domiciliare. Se questo tipo di strategia manca e soprattutto viene frazionata in 21 servizi sanitari regionali, ciascuno con le sue regole di tamponi, di test sierologici, di modalità di isolamento domiciliare, ecco, si ripropone quella frammentazione della sanità italiana che proprio in un momento critico come quello dell'epidemia doveva riportare le redini allo Stato, al governo, che con linee di indirizzo e strumenti di verifica doveva guidare 21 figli, mi si consenta che ogni tanto sono anche un po' capricciosi e non tutti ligi alle regole. Allora è evidente che se non riusciamo a riordinare la sanità, che non significa ricentralizzarla, ma fare in modo che ci sia un soggetto che si chiama governo, che si chiama Stato, o a monitorare quelli che sono tutta una serie di comportamenti delle regioni, è evidente che quelle diseguaglianze regionali che noi viviamo tutti i giorni sulle liste d'attesa, sulla mobilità sanitaria, su tutti quegli aspetti della sanità ordinaria che tutti abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi anni, ce li vedremo sicuramente ribaltati nella gestione di una fase 2 dell'epidemia, con esiti che ovviamente sono legati prevalentemente al buon comportamento dei cittadini che dovranno utilizzare il distanziamento sociale e le mascherine dove questo non è possibile mantenerlo. Diciamo che anche su questo ci sono letture empiriche e molte volte condizionate dal punto di vista. C'è chi dice gli italiani sono stati bravissimi, siamo stati eccezionali anche a livello regionale, la nostra regione è stata esemplare per come si è comportata e non ho dubbio di sospettarlo. C'è chi va per strada e vede più o meno quello che ho osservato ieri io, che l'impressione generale sia stata quella, è tutto finito, è tutto passato, soprattutto in zone come io ho l'osservatorio romano, che è una città di cui si parla di focolaio perché la gente è andata a un funerale, sono baciati, sono abbracciati, sono lacrimati addosso e quindi è scoppiato il focolaio. Ma a Roma non si è vista la fila delle bare trasportata dai camion militari. Quindi è logico che la percezione generale in situazioni come quella in cui vivo io tutti i giorni è quella di dire vabbè, è successo, è finito, è passato. Si tende un po' a rimuovere o si tende a fare un conto che forse andrebbe un po' analizzato nelle sue radici profonde, di dire sì, teniamo in conto che moriranno altre persone, però di fronte al fatto che si fermi un paese, che è un dramma enorme, abissale, teniamo in conto, come quando si fanno le guerre, si dice sì, vinceremo questa battaglia e lasceremo sul campo tutti questi morti. Sono conti che i militari sanno fare, ma abbiamo sempre detto che equiparare una pandemia a una guerra, questo tipo di pandemia a una guerra, è totalmente sbagliato. Noi ci fermiamo soltanto un istante. Allora, il numero è 800240024. Mi piacerebbe sapere dagli ascoltatori che si trovano in varie regioni, visto che mi ascoltate da tutta Italia, qual è la percezione nella loro regione rispetto alla situazione attuale, generale, non locale, per capire se quello che dice Nino Cartabellotta con un alert non è una condizione di opposizione o di critica, cioè semplicemente teniamo conto di questo fattore. Ci sentiamo tra un istante. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Melog. Questo caffè nella tazzina di ceramica nel nostro centro di Firenze è una delle cose più belle e rappresenta la libertà e la rinascita. È l'Italia che riapre. Commercio al dettaglio, ristorazione, turismo e cultura tornano a camminare. L'occasione per dare sfogo ai desideri. Una delle cose più caloriche, più zuccherine, più perniciose che ci sono. A Palermo e Catania si tornano a guardare le vetrine. Mi sembra il primo giorno di lavoro. È emozionato. Mi sento emozionato. Riaprono le spiagge, anche se non in tutte le regioni. Bisogna che però ci sia anche la gente disposta a comprare, a darci una mano in questo momento che secondo me ce n'è tanto bisogno. Zero zero ventiquattro. Ringrazio innanzitutto da Milano Carmelo Lauricelle, Miriam Lucchetti, da Roma Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti. Stiamo oggi parlando con il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. Ricordo che la Fondazione Gimbe è il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze. Cartabellotta è uno degli esperti più autorevoli sulla ricerca e sanità nel nostro paese. Lo scopo di questa fondazione è dare evidenza e rilevanza a quella che è appunto la analisi scientifica del dato sanitario. Quello stiamo facendo con serenità questa mattina. Quello che chiedevo al pubblico è di darmi un'idea di quello che accade nella propria regione. L'idea è che ogni regione, in nome della sua autonomia, decida autonomamente. Faccio un esempio banale. Io ho deciso di fare il test sierologico a me e alla mia famiglia. Ho chiesto al mio medico di base di farmi la ricetta bianca, me l'ha fatta. Adesso devo andarmi in giro a cercare chi fa questi test, con grande differenza di test, di spesa, di impegno e via dicendo. Un altro amico, se in un'altra regione, ha detto no, guarda, nella mia regione vengono a casa a fartelo. E già questa è una differenza. Poi se qualcuno risulterà positivo dovrà farsi il tampone, cosa dovrà fare? Insomma, manca una lettura generale di regola uguale per tutti. Ognuno localmente, come si è sempre pensato che giusto fosse, decide a livello regionale. Ma questo vale anche in tempo di pandemia. Dovrebbe esserci un'idea, secondo me, più generale, ma non soltanto secondo me, anche secondo l'Istituto Gimbe, che fa questo tipo di analisi. Sentiamo qualche telefonata, poi risponderà Nino Cartabellotta. Antonio da Verona, buongiorno. Buongiorno. Allora, io penso che, innanzitutto, nella mia città, Verona, il 99% delle persone si comportano in modo corretto. L'1% no, ieri in certi bar c'era una situazione indecente, però non c'è nessuno che controlla. E qui vengo al dunque, nel senso che questo è un paese che ha bisogno di regole e di un sistema di controllo e di premi e punizioni adeguato. E invece non esiste. E allora inventiamo di tutto e di più, controlli sempre, un controllo in più. Ed è sbagliato. Antonio, si rende conto, finché le città erano deserte, era abbastanza, anche seppur oneroso, più semplice per le forze dell'ordine vedere una persona per strada nel deserto totale, fermarlo e dirgli cosa fa in giro, perché va in giro, fammi vedere perché, dove vai, via dicendo. Faccia parte, oggi che il mondo è per strada, è un po' difficile fermare ogni persona per strada e dire tirati sulla mascherina a ogni essere umano che va in giro senza. E viene addirittura messo in dubbio anche questo a macchia di leopardo. se, quale sia poi il protocollo esatto per l'uso della mascherina, dove vada messa, dove non vada messa, lei mi conferma quella che è, diciamo, l'ipotesi che avevamo sollevato. Sentiamo Riccardo d'Aosta, visto ci allarghiamo in altre regioni. Riccardo d'Aosta. Sì, buongiorno. Niente, io ho telefonato in realtà per un'altra questione, che è più legata al discorso dell'informazione basata sulle evidenze scientifiche, ovviamente. Nel senso che c'è molto, come dire, prudenza, giustamente, nel, come dire, nel cercare di uscire da questa situazione. Però è anche vero che non, i media hanno parlato poco, per esempio, di uno studio che io ho trovato per caso pubblicato sul Foglio del 22 di aprile, dove si fa riferimento alla modificazione di un gene che si chiama ORF8, che è stata ritrovata adesso in questo coronavirus, che è la stessa modificazione che ha avuto il suo cugino nel 2003, quando appunto questo SARS-CoV-1 si è adesso non è per dire, non vorrei allargare il tema su cose che non c'entrano nulla. Lei dice, ha letto di uno studio fatto da un giornale, ci se ne parla poco. La comunità scientifica è una comunità collegata, il metodo scientifico fa sì che gli studi vengano analizzati dagli scienziati, non perché io lo leggo sul giornale e le posso dire se questo studio ha validità rispetto a un altro. Lasciamo che ognuno faccia il suo lavoro. In questo momento, secondo me, il tema non è se la modificazione della proteina, come ha letto in un articolo, che è una divulgazione comunque giornalistica, abbia avuto una rilevanza o meno nel trattamento mondiale del coronavirus. Questo è il mio punto di vista. Salvatore, provincia di Catania, poi Cartabellotta interviene nei singoli casi. Salvatore, provincia di Catania, sì. Buongiorno. Un secondo glielo rubo per fare i complimenti a lei. Dopodiché deciderò dire questo. Io credo, ripeto, credo che nella mia regione la situazione sia un po' meglio rispetto a quella che è la media nazionale, io credo. Quindi ci siamo trovati discretamente bene. Solitamente siamo molto indisciplinati, glielo ripeto se vuole. Ma questa volta credo che i milanesi siano stati più indisciplinati. Lo abbiamo visto. Lei tutti. Ne fa una questione di rivendicazione meridionalista nei rispetti comportamenti. Sì, adesso io non voglio entrare in disciplina, Stiamo parlando. Il problema, secondo me, va rovesciato. Di gestione delle regioni del problema, che è eterogeneo. Poi la popolazione si comporta diversamente, ha le abitudini diverse, usi sociali differenziati a seconda delle latitudini. Però quello che stiamo cercando di capire è che in realtà questo adattarsi ai territori fa sì che non abbiamo oggi una misurazione omogenea di quello che è il fenomeno. Questo è l'unico problema. Poi se a Catania sono stati più disciplinati che a Milano, rientra nelle valutazioni di colore generale, di analisi sociale. Quello che cerca di dire Cartabellotta è dire, se gli indicatori che costituiscono un dato sulla diffusione nazionale sono eterogenei e sono anche affidati comunque a una discrezionalità regionale che può sembrare, a voler essere maliziosi, molto condizionata dal far vedere che ci sono meno contagi per avere più chance di riaprire l'attività commerciale, come è giusto che pensino, non possiamo più avere un dato generale omogeneo. Nino Cartabellotta ha un commento su queste prime tre telefonate da tre situazioni diverse in tre diverse zone d'Italia. Le danno un senso della percezione comunque del cittadino medio rispetto al problema che voi cercate in maniera discreta e molto, diciamo, non polemica di sollevare? Ho ascoltato con interesse i commenti dei radioascoltatori e per quello che riguarda gli aspetti legati alla ricerca, ecco, mi permetto di sottolineare che purtroppo si dà un'enfasi eccessiva ai risultati della ricerca preliminari ma molto notiziabili sui media quando ancora non c'è nessuna conferma definitiva da parte della comunità scientifica e soprattutto quel concetto di replicabilità, cioè un risultato prima di poter essere applicato alla popolazione deve essere replicato, cioè confermato da altri team di ricercatori. Quindi, oddio, non è facile generale, quando il presidente degli Stati Uniti dice che tutte le mattine spiglia la pasticca antiromatica per guarirsi il coronavirus, uno perde un po' i punti di riferimento. Alla collega conterraneo, o qualcuno potrebbe dire anche conterroneo siciliano, Dico che purtroppo c'è un vissuto in questa pandemia, in questa epidemia a livello nazionale, che è legato anche inevitabilmente al fatto che alcune regioni hanno vissuto in maniera diversa, voglio dire, l'impatto violento dell'epidemia, e questo purtroppo non è legato solo al comportamento della popolazione, ma al fatto che, ahimè, l'epidemia è arrivata con certe modalità nel nord e per fortuna non è arrivata al sud, grazie anche alle misure tempestive messe in atto dai governatori e al buon comportamento dei cittadini. L'altro problema reale che dobbiamo porci è che comunque io vorrei che si diffondesse la consapevolezza in tutta la popolazione che noi abbiamo un diritto alla salute, che è un diritto fondamentale, sancito dalla Costituzione, e che non può affidare senza un adeguato adeguate linee di indirizzo e verifica dello Stato a quelle che sono le regioni. Ecco, a me piace poco il termine governatori, perché la mia impressione è che questo decreto legge del 16 maggio e il DPCM successivo facciano apparire l'Italia come se fosse un po' uno Stato federale come gli Stati Uniti, cioè dove ogni Stato di fatto applica le sue leggi, applica le sue regole, e il destino sanitario di quelle persone è legato, voglio dire, a quanto decide il governatore di quello Stato. Noi non abbiamo questa architettura costituzionale e normativa del nostro paese. Addirittura... Ma vede, cominciano già le prese di posizione dei vari governatori. Pizzarotti questa mattina si è espresso su Facebook, dice: no, troppo affollato, troppa gente in giro, dobbiamo restringere. De Luca l'ha fatto prima degli altri. Poi naturalmente vengono fuori la diversità. Infatti l'ha detto lei, veramente. Noi stiamo vivendo in realtà il federalismo che molti cercavano, esatto, molti altri consideravano inutile, ma stiamo vivendo il Covid-19 ha portato un'Italia federalista rispetto alla gestione della pandemia. Ma tra l'altro mi permetto anche di aggiungere, nonostante si tratti di temi complessi, è che rispetto a quelli che sono i principi costituzionali, se la sanità è materia, si dice, di legislazione concorrente, cioè dove, per intenderci, alcune cose fa lo Stato e altre cose fanno le regioni, la Costituzione affida allo Stato la legislazione esclusiva in materia di profilassi internazionale, come nel caso di una pandemia, e addirittura lo Stato con l'articolo 120 può esercitare il cosiddetto potere sostitutivo nei confronti delle regioni quando c'è un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero sia se lo Stato non si riprende in mano le sue competenze affidate dalla Costituzione in una situazione di pandemia e addirittura delega il monitoraggio e l'applicazione delle misure totalmente alle regioni, è evidente che si sta, tra virgolette, anticipando quello che molte delle regioni del nord hanno chiesto, cioè un'autonomia differenziata, che un regionalismo differenziato, un'autonomia differenziata che tra l'altro stiamo sperimentando probabilmente nel modo peggiore, cioè durante la fase di un recupero di una pandemia. E questo a noi allora preoccupa adesso, molto come dipendenti. Ci dobbiamo fermare soltanto un altro istante, però mi interessa per dopo sul tema che ho sollevato io come esperienza personale, dei tamponi, questo termine che molte volte sembra la panacea risolutoria di tutto, in altri casi ci si rende conto che forse un'idea più generalmente accettata e applicata ci avrebbe dato più tranquillità e sicurezza. Ci fermiamo solo un istante. Melog 800240024. Devo dire che sarebbe anche divertente, se non parlassimo di qualcosa di drammatico, vedere le dichiarazioni dei vari governatori, che sono antitetiche. Zaia dice: noi siamo stati più bravi, e figuriamoci se avesse gestito Roma la nostra situazione. Pizzarotti, come ho detto, richiama i cittadini, dice: basta, bisogna stringere, qua siamo troppo indisciplinati. De Luca addirittura fa passi indietro rispetto alle regole generali. Insomma, è interessante vedere questa applicazione indiretta del federalismo su uno dei momenti più drammatici che ha passato il nostro paese nel dopoguerra. Non ho detto, magari funziona, magari con questa situazione se ne esce. Sentiamo altre due telefonate, poi faccio rispondere a Nino Cartabellotto, ricordo presidente della Fondazione Gimbe, alla domanda che avevo fatto io. Paolo, provincia di Torino. Paolo, velocemente. Sì, buongiorno a tutti. Sì. Ma io ho ripreso a muovermi in maniera un po' più consistente dal 4 maggio, visto che sono un agente di commercio. Mi muovo principalmente nella zona di Torino Nord, provincia di Torino, sempre più che altro la zona nord. Nell'ultimo periodo, soprattutto da questa settimana, mi sembra molto un libera tutti, ma da un, non condanno assolutamente nessuno. Sembra quasi che le persone, perché indossino la mascherina, che poi sappiamo benissimo che la mascherina serve ma molto poco, perché lo sappiamo, andatevi a leggere i trattati di medici, e perché hanno quelli indosso possono fare tutto quello che vogliono. Sì, ma... la mascherina può essere un buon presidio se usata in maniera corretta, se cambiata di continuo. Penso che le mascherine, uno c'ha una mascherina, se la porta dietro da un mese, si vede dal colore delle mascherine, che ormai sono diventate marroni, quindi uno c'ha la mascherina, se la porta come se esce col cappello, con l'ombrello, la stessa maniera. Sentiamo invece Daniela, provincia di Brescia, per capire la differente percezione del momento a seconda del cambio di latitudine. Daniela, provincia di Brescia. Sì, buongiorno. Io abito sopra un bar, il bar adesso ha ripristinato i tavolini all'aperto, si è allargato un po', lo capisco, aumentano un po', devono aumentare un po' gli introiti dopo la chiusura, però io praticamente devo entrare a casa mia a pochi centimetri dalle persone sedute che ho visto, in parte sì, indossano la mascherina, in parte non la indossano, chiacchierano a bassa voce naturalmente per farsi sentire, dovendo tenere le distanze un metro e mezzo, e questo secondo me è un problema, un po' l'indice di un problema, cioè appunto del liberi tutti, come hanno detto tanti altri. Tanti altri. Sentiamo persone. Claudio, grazie. Claudio, provincia di Savona. Savona. Sì, ecco, non vorrei essere fuori tema, nel senso che io stavo parlando del numero dei decessi in Liguria. Praticamente noi in Liguria abbiamo avuto 1300 decessi con una popolazione di 1,5 milioni di abitanti. Che vuol dire che praticamente abbiamo avuto la stessa percentuale di morti dell'Emilia e un po' più che il Piemonte. E questo secondo me è dovuto proprio al fatto che è stata gestita male la fase di crisi, non sono stati fatti i tamponi, eccetera, eccetera, e quindi ha portato tutto questo, ha portato a un'alta mortalità e praticamente della Liguria non se ne parla, però siamo ai vertici per quello. Allora, ritorniamo con Nino Cartabellotta. Vediamo di capire, come vede, sentiamo pubblico che chiama dalle diverse regioni e ognuno ha una percezione diversa e una percezione particolare, ma questo non porterebbe a riflettere sul fatto che in realtà non ci possa essere una attenzione omogenea in tutto il paese, ma secondo di come si è manifestato il virus debbano essere prese, diciamo, delle misure particolari. Naturalmente questo non inficia quello che dice lei, che in realtà è il monitoraggio e la costante tenuta sotto osservazione del virus che deve essere omogeneo. Ma guardi, quello che io di cui mi sono fatto, diciamo, in qualche maniera convinto guardando i numeri e l'evoluzione, soprattutto le dinamiche del contagio questi tre mesi, sono quasi tre mesi domani, è che noi dobbiamo tenere conto di due aspetti per rispondere alla sua domanda. Uno è quanto e come si è diffuso il contagio nelle diverse regioni italiane e con quali tempistiche. La seconda è legata a quelle che sono le modalità con cui ciascuna regione ha messo in atto le strategie per monitorare e per governare l'epidemia stessa. Allora, incrociando questi due aspetti e moltiplicandoli per 21, è evidente che ci sono 42 di fatto modalità con cui la popolazione ha vissuto l'epidemia stessa, perché da un lato le disposizioni regionali, che ormai sommandole tutte sono arrivate a più di 1,000, dall'altro i decreti circolari nazionali che hanno superato i 150, cioè noi abbiamo vissuto di fatto in tre mesi un susseguirsi di regole, modifiche regionali, applicazioni, dove le metrature sono cambiate nel corso di una notte, le metrature nei ristoranti ad esempio. Assolutamente. Ecco, nel corso della notte è cambiata la misura, l'unità di misura della sicurezza. Perché la misura di sicurezza che oggi viene raccomandata, la distanza di sicurezza che oggi viene raccomandata a livello internazionale è di 1,8 metri. Poi è chiaro che per fare quadrare un po' tutta una serie, diciamo, di congruenze con le varie tipologie di attività che devono essere riaperte, si è raggiunto, diciamo, il minimo sindacale di 1 metro. Però in questa logica del metro bisogna sapere che è 1 metro, diciamo, forzato, quindi quando si dice che bisogna stare a distanza, quindi è che da questo dipende molto la risalita della curva per l'incremento dei contagi, i cittadini devono essere consapevoli che quel metro, diciamo, è una sorta di gentleman agreement tra Stato e Regione dal punto di vista del compromesso politico, ma dal sì, punto so di che vista c'è stata scientifico, una notte di fuoco fra dal diciamo, punto di vista scientifico, la conferenza stampa che... e la firma in cui le regioni hanno detto ma noi non possiamo andare avanti così, non possiamo assolutamente permetterci questo. Ma tanto per essere fino in fondo realistici, in che data avremo l'indicatore di quello che è accaduto da ieri ai giorni successivi? Quanto tempo bisognerà aspettare? Perché oggi vedere le stime ottimistiche ci fa molto piacere, ma appartengono a un'altra epoca dei nostri comportamenti. Sì, questo purtroppo è un aspetto che anche dal punto di vista politico è stato fortemente trascurato, peraltro anche da comunicazione istituzionale, perché noi oggi quello che sappiamo sulle tempistiche è la media dal contagio alla comparsa dei sintomi è 5 giorni. Poi ci vogliono da 9 a 10 giorni da quando viene effettuata la richiesta del tampone, a quando il tampone viene effettuato, a quando viene fatto l'esame di laboratorio, a quando viene consegnato il referto. Quindi mediamente quindi 3 settimane due settimane piene per poter verificare quelli che sono, voglio dire, gli effetti di un allentamento del lockdown. In parole povere, la riapertura del 4 maggio noi l'abbiamo cominciata a guardare da ieri. Quindi questa settimana vedremo che cosa è successo nella curva dei contagi partendo dal 4 maggio. Tutto quello che è stato riaperto il 18, quindi il grosso della gente che, come si diceva, è andata in giro, non potremo noi vederla prima dei primi di giugno, quando peraltro si riaprirà definitivamente non solo la mobilità interregionale, ma anche, voglio dire, la mobilità internazionale. E questo inevitabilmente ma ci metterà nelle condizioni... Ma è condizionata dai numeri questa riapertura o... Ci sarà al momento sta nel decreto legge, poi è evidente che se dovessero esserci delle risalite importanti questo potrebbe essere rivisto, ma si capisce bene che se noi non possiamo rivedere le conseguenze delle riaperture del 18 prima del 3, è chiaro che il 3 si riaprirà tutto e poi speriamo di no, andiamo a fotografare quello che è successo in queste 3 settimane. Cioè bisogna entrare nell'ottica che ci sono 3 settimane di ritardo temporale tra le azioni intraprese e quelle che sono le conseguenze misurabili, sia in senso positivo che in senso negativo. Così come, se vi riporto indietro di un paio di mesi, qualcuno diceva ma come, siamo tutti a casa e non vediamo nessun risultato, perché ci volevano 2-3 settimane per vedere i risultati. Infatti lockdown abbiamo cominciato ad apprezzarne gli effetti intorno alla fine del mese di marzo. Allora Nino Catavellotta, la sigla ci sta portando via il tempo a nostra disposizione. Devo dire, non abbiamo fatto un'operazione di disfattismo, ma semplicemente di attenta e cauta riflessione rispetto all'euforia generale su quello che dovremmo tenere conto da qui a 2 settimane abbondanti. Ci risentiremo per quei giorni e rifaremo il punto sulla situazione. Grazie, buona giornata, alla prossima. Sarà un gran piacere, buona giornata a tutti.